Yeah, Lure, DJ Camo. Se, yeah. Mi hai dato un'anima nuova tinta di rosso, è il più grosso schiaffo morale che un uomo ha sentito addosso. E le tue mani sulle mie, origami e filosofie, quando teorizzo teologie. Principessa, dove sei? Anni di studio per capire dove trovarti, ho usato anche Google, ma sbagliavo le persone, i posti, i giorni. Ho buttato il mio tempo bevendo i sogni, zombie, sabato sera a fare concerti, a bere birra, concerti, uomini servi. Adesso pago ogni mio errore, ma non questo che ti ha fatto essere mia per come sono adesso. Ehi, toccami il cuore, prendi il volo, sei la sola cosa che riesce a mandarmi play. E adesso penso a me come una cosa presente, io e te siamo la cosa che ci invidia la gente. Allora bella, vieni giù con me, ti porto dove non sei stata mai, ed ogni volta che mi seguirai io lo so che sarò il meglio uomo che tu abbia vissuto mai. Allora bella, vieni giù con me, ti porto dove non sei stata mai, ed ogni volta che mi seguirai io lo so che sarò il meglio uomo che tu abbia vissuto mai. Dammi un minuto e spazio, butteremo via il nostro passato, chiuso in un vecchio baule impolverato sul soppalco. E sarà così bello ricordare il dazio che ho pagato per averti accanto ed essere io ciò che volevi tanto. Ehi, mi hai dato un'anima nuova, quella che il mondo ha reso sterile ed immune alla gioia, quella che il tempo ha trasformato da vittima a boia. E puoi giurarci, l'hai presa, resa un'anima nuova. Ehi, raccolgo lo spazio e tempo per farla immortale, trasformo la mia vecchiaia in cose da fare. E non esiste rewind avanti, perché tu mi rendi vivo qui solo a pensarti. Principessa, dove sei? Anni di studio, adesso che sei cosa mia coloriamo il futuro. Prendere i giorni e trasformarli con te, che da quando ti ho trovato non ti mollo un minuto. Allora bella, vieni giù con me, ti porto dove non sei stata mai, ed ogni volta che mi seguirai io lo so che sarò il meglio uomo che tu abbia vissuto mai. Allora bella, vieni giù con me, ti porto dove non sei stata mai, ed ogni volta che mi seguirai io lo so che sarò il meglio uomo che tu abbia vissuto mai.